programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Dunque sono esattamente le 12 e 9 minuti primi, quasi e 10, manca poco. Buon Natale, abbiamo già detto prima, anche col jingle della radio, con tutte le nostre voci del palinsesto radiofonico di CRM Predio. Vi ricordo sempre in diretto ogni giovedì, come adesso, Filippo Glorioso con carta e penna, in differita invece domenica dalle 9.30 alle 10 circa. La parte tecnica c'è sempre lui, il grande Simone Brancato, tecnico di registrazione, tecnico audio, tecnico di donna, insomma tecnico di tutto. Ciao Simone, ben ritrovato. Beh, insomma, chi arriva da fuori, l'ho visto un po' così. Hai mangiato bene per Natale? Ah, ecco, adesso ti ho portato anche un regalo che il maestro che abbiamo qui, adesso non c'è nulla, ci ha regalati, e quindi oggi pomeriggio, per Capodanno, quando vorrai in famiglia, ti metterai addosso altri 30 kg minimo, perché lui fa delle cose straordinarie. Allora, Simone Brancato ha salutato anche lui, saluto anche i radioascoltatori che in questo momento sono sintonizzati sulle frequenze 101.4, ma potete anche seguirci, perché no, sul www.crmpreradio.it, oppure se vi piace scriveteci su Facebook, se non siamo già stati tra i vostri, insomma, contattateci, cercate CRM Radio, e così, insomma, diventiamo grandi amici. Il telefono, per chi vuole se fare delle richieste discografiche, lo faccia allo 0921 423 45 e 6. Allora, ben ritrovati, spero che abbiate trascorso un buon Natale. Certo, sotto l'albero, insomma, non è che ci sono regali tanto belli, diciamolo, va, dice un mio grande amico ex ministro, nel senso che queste manovre, già l'autostrada si porta in aumento, altri aumenti in corso, il catasto non si sa, i metri quadri delle nostre abitazioni, quelli che i nostri genitori o quelli che noi ci siamo prestati a qui ad acquistare, ci costeranno un altro po', ma come finirà? Non si sa, ai posteri l'ardua sentenza. Intanto io do il benvenuto anche ai nostri sponsor, che sono tantissimi anche questa settimana, e saluto, e voglio dire con piacere, perché sicuramente siete andati a cena per il cenone di Natale in questo ristorante straordinariamente bello da vedere, ma bello da gustare. Perché da gustare? Perché comunque il pesce vi salta dal mare direttamente sulla tavola, perché lì mangiate veramente pesce fresco. E sto parlando del ristorante di Ai Sapori di Mare, dove a Termini di Merese. Vi do subito l'indirizzo per il cenone di Capodanno, mi raccomando. Allora, via Cristoforo Colombo 8 bis, Termini di Merese. Il numero per le vostre prenotazioni 091 81 11 447. Ai Sapori di Mare, frutti di mare, ricci, crostacei, cotti e crudi, pesce fresco, e naturalmente c'è anche il catering, perché mettete sotto le finestre, vostra moglie non vuole sprecare più di tanto il suo tempo dai fornelli. Allora, che fate? Beh, la portate a mangiare ai Sapori, ristorante Ai Sapori di Mare, come dicevo prima, via Cristoforo Colombo a Termini Imerese. Un altro grande saluto va a 2M Porte che arredano, dove lo trovate? A Castelbuono. E dove se no? Castelbuono, sì, 2M, non dimenticate questo nome che straordinariamente vi fornisce delle porte interne di diversa misura, ma soprattutto di diversa fattura, perché pensate, c'è una vastissima gamma intanto di porte interni, le più prestigiose, il ciliegio oppure il palessandro, poi le porte di rovere massiccio, ragazzi. Pensate, a 600 euro, a 600 euro con incluso il montaggio. Poi ci sono le porte fuori misura, e lì bisognerebbe andarci, farvi prendere le misure di casa vostra e farvela arredare con le porte 2M, rigorosamente 2M. Vi do l'indirizzo, che dunque l'esposizione in via Cavour 74, invece la produzione incontrata a San Calogero. Bisogna telefonare, perché sono tantissime le richieste, non andateci così di sorpresa, perché se no non possono neanche ricevere. Non sto scherzando, 0921 677 0122. 2M porte che arredano, naturalmente per quanto attiene le apriporte, cioè le maniglie così chiamate, c'è anche lì una vastissima gamba, e voi potete scegliere come cavolo vi pare piace il cavolo, poi lo mettete magari nel piatto e lo mangiate crudo oppure bollito. Detto questo, allora ringraziamo questi due primi sponsor, e via via nel programma poi parleremo di altri. Abbiamo delle reception molto belle, abbiamo degli agriturismi straordinari, insomma ce n'è per tutti i gusti, per il vostro Capodanno naturalmente. Allora, intanto io do il benvenuto, lo salutiamo tutti insieme, poi diamo la linea alla regia per una pausa musicale. Al rientro parleremo tutta la puntata con questo personaggio straordinario, meraviglioso. Non voglio oberarvi con tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, ma lo è, perché se gustate quello che fa lui, direte: è buono, ma quanto è buono! È buono lui, ma è buonissimo quello che fa. Nicola Fiasconale, il maestro pasticcere number one, secondo me, poi secondo gli altri non lo so. Per me è il numero uno in Italia dell'azienda, della grande azienda Fiasconaro. Ciao Nicola. Buon panettone a tutti. Ecco, vedi, già iniziamo bene. Allora, Nicola vi ha salutato, mi dai la licenza di dare linea alla regia un attimo? Assolutamente. Ecco, allora, linea alla regia, rientro, parliamo con Nicola Fiasconaro della grande azienda Fiasconaro et Company.

passing by. Bene, una canzone stupenda, mi è sempre piaciuta, sia in versione inglese che in versione italiana. Questo è By Me, insomma, non poteva essere che così, sotto le feste di Natale, questa armonia ci vuole. Dicevamo prima, l'abbiamo già presentato, il grande maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, eccolo qui. Io mi trovo due brugioline, ti ho fregato stamattina, una che riguarda tutto l'assortimento della Fiasconaro per quanto attiene Natale, l'altro invece per quanto attiene Pasqua già del 2012, ma ne parliamo più tardi. Di questo. Nicola, intanto grazie per essere venuto, per aver sottratto il tempo, e tu ne hai poco da dedicare. Il piacere è tutto mio. No, sei troppo buono, in effetti sono molto impegnati tutti e tre i fratelli. Allora Nicola, io ho avuto il grande piacere, come tantissimi castelbonesi, ma tantissimi siciliani anche a livello nazionale, di conoscere papà. Papà grande interista, quest'anno grande soddisfazione, è venuta la figlia di Facchetti da voi, foto con il manager dell'Inter, il patron dell'Inter, quindi grandi soddisfazioni. Ma in effetti papà come uomo, come papà com'era? Perché vederlo all'esterno era un anfitrione, insomma era un personaggio grande, grosso, ma un cuore enorme. È un po' una domanda un po'... Come papà, che ecco. Mi prende. Lo credo che ti prenda. Cosa dire di papà? Il terremoto per almeno 50 anni nelle Madonie. È vero. Un vulcano in eruzione continuo. Niente, insomma, noi abbiamo questa grande responsabilità con la mia famiglia tutta, di cercare di proseguire quello che è stato un po' il suo percorso, quello che è stato un po' il suo modo di interpretare e vivere in un territorio, quindi le Madonie. Che li ha sempre viste legate, insomma, no? Culturalmente, nello sport, nella politica. Oggi questo è un po' questo sogno suo magari non si sta realizzando, no? C'è ancora un problema di campanile, c'è ancora sarebbe molto bello ma va a scemare, però, sarebbe molto bello se questi 20 micro piccoli comuni bellissimi medievali, insomma, un po' uno più bello chi dell'altro. Più chi meno, voglio dire, Cefalù apripista, no? del territorio delle Madonie, fino a finire nelle Petralie, Blu, Figancia, eccetera. Insomma, lui è stato davvero un pioniere, insieme qui un altro signore di Cefalù, se non mi sbaglio di Gaetano, come grande pioniere della ristorazione dagli anni 70. Lui nel suo piccolo iniziò a fare il fuoricase, il catering, quando si facevano le quantirine, no? Ah, ecco, dei famosi matrimoni. Ed era già un matrimonio aristocratico, questo semplice vassoetto di cartoncino dove c'era un biscotto all'uovo, due frulline, una pasta ancora di mandorla, ricordo, pasticcere, insomma. E poi il rosolio che si faceva a Santa Nicola proprio in casa, il rosolio. La torta a cinque piani, e quello già era un evento molto straordinario. Quindi io ho vissuto un po' questo momento suo della ristorazione, quindi la banchettistica la faceva in tutti i paesini, da Cefalù in tutti i micro comuni dell'entroterra delle Madonie, e mi sono innamorato un po' di quella che era la sua passione, la sua arte dolciaria. Quindi parte da lì la tua passione. Sì, no? Io pigro a scuola, ma restavo a Santa Nicola, dove c'era la casa materna, la mamma si partoriva in casa a quei tempi, sì. E lui giù nell'antico laboratorio per 50 anni abbiamo avuto, sfornava dolci di mandorla e vigne e faceva i suoi profiterol, insomma, no? Quindi... Senti, un insegnamento di vita più che come maestro pasticcere. Papà era un io amavo molto, te lo raccontavo fuori onda prima, i profiterol che papà faceva, queste montagne enormi, vassoi enormi di profiterol. Sì. Dico, al di fuori dell'insegnamento della materia, cioè di plasmare la materia che tu plasmi tutti i giorni, inventi, crei, no? A parte quello che come DNA è normale che ti abbia trasmesso, perché hai vissuto i tuoi 40, i tuoi 39, insomma, all'interno della famiglia, come i tuoi fratelli, poi certo. Nello specifico vi occupate, poi ne parleremo, della distribuzione dell'azienda, come funziona gli ingranaggi, come si muovono affinché tutto possa funzionare come un puzzle e i pezzi poi alla fine vanno tutti al giusto posto. Ma come maestro di vita, quali sono stati gli insegnamenti fondamentali di papà? Ma lui era considerato a Castelbuono un personaggio perché riusciva nel suo bar di Piazza Margherita, o prima ancora in via Sant'Anna c'era le Petit Bar, o prima ancora dove oggi c'è un famoso bar, l'American Bar, lì iniziò il percorso del nonno con papà. Quindi il primo negozio che abbiamo avuto era in piazzetta, no? Quindi parliamo di 70 anni circa di storia, stiamo parlando di forse più. Più di 60 anni fa sicuramente, di tradizione. Sì, e quindi il suo modo di interpretare il rapporto umano e anche politico. Lui faceva politica, era un doroteo, un democristiano, ma i suoi migliori amici erano comunisti o fascisti, per esempio. Non riusciva ad avere questa forza di legare culturalmente e umanamente con chiunque, e a prescindere da quello che è appunto il discorso ideologico. A quel tempo c'era l'ideologia, ma politica, come no? I suoi veri amici erano dall'altra parte, quindi questa era un po' la sua forza. Straordinario. E non era una cosa semplice, penso, assolutamente. E poi non doveva vincere la Coppa dei Campioni l'Inter, perché succedeva all'ira di Dio. Nello sport soprattutto, perché lui trascurava il lavoro. Io mi ricordo che da bambino c'era anche lo sci casso, lo sci kai, si andava a sciare, a fare le competizioni anche nazionali. Quindi si andava intanto qui da noi a Piano Battaglia, dove 40 anni fa era uno splendore. È peccato. Uno splendore, perché c'erano delle villette meravigliose, c'era un rispetto per l'ambiente, per l'igiene, per tutto. Oggi purtroppo non è più così. E quindi lì si andava a sciare, si facevano le competizioni, le gare, poi si andava anche a Ligua Clossa, a Nicolosi, e lui col suo mezzo, col suo furgone, al posto di fare banchette doveva accompagnare noi, perché c'erano le gare, insomma. Se ne fregava anche dei banchetti, perché c'era il tennis, no? Perché c'era la pallacanestro, perché c'era il calcio, che a quei tempi era abbastanza florido. La squadra del Castelbuono era anche in promozione, insomma, quasi nel semiprofessionismo. Quindi era questo terremoto continuo, riusciva quindi nella politica, nello sport, aggregazione, mettersi insieme, l'unione fa la forza, sinergie con tutto. Quindi e questo con è tutti, quello che vi ha consegnato. Questo poi è un patrimonio enorme, è qualcosa, no? Di molto impegnativo, di oggi non è così semplice forse rispetto a molti anni fa, però noi di questo ne facciamo sicuramente tesoro. E non è un caso se l'altro giorno abbiamo avuto il privilegio, no, che la famiglia Moratti ci chiama a San Siro, dove loro da iniziò il papà di questo Massimo Moratti, Massimo, che è l'attuale presidente, sì, Angelo, certo. Moratti, già dagli anni 60 riuniva alla vigilia di Natale la squadra di calcio per la solidarietà, tutti gli orfanelli della città di Milano, no? Gli si donava un gesto simbolico, un sacchetto con una magliettina firmata, con un dolce, un panettone. Quest'anno è toccato alla famiglia Fiasconaro. Bene, no? Complimenti. Quindi avere il privilegio di ricevere da Massimo Moratti proprio la maglia nera-azzurra firmata Fiasconaro, no? Ed è stata una cosa davvero di grande emozione. Quindi c'è quella voglia di continuare quello che era il suo percorso sportivo, culturale ed imprenditoriale, perché anche da un punto di vista di imprenditoria nel suo piccolo era davvero un pioniere. Allora, papà si dedicava più allo sport che non al lavoro, ma lavorava anche, perché io lo ricordo da ragazzino sempre dietro il bancone con quel gran sorrisone, perché aveva un viso enorme, ma quanto avevo il viso e il corpo era il cuore, forse il cuore andava oltre. Allora, intanto abbiamo parlato di papà, come era giusto fare, perché è da lì che parte tutto. Poi un bel giorno voi, cioè, le nuove generazioni si industriano, no? Cominciano a guardarsi attorno, ma perché non facciamo marketing, ma perché... Come avete pensato poi di arrivare via via a quasi all'industria vera e propria del chiamiamo panettone, ma fate altre cose, poi ne parliamo. Assolutamente. Ma con l'industria vera e propria del panettone, come avete, da dove è scoccata la scintilla? Senza volerlo, del passaggio? Senza saperlo, non l'abbiamo neanche capito. Infatti, i primi anni fu anche un trauma per tutti e tre. Io già a 20 anni, ecco, grazie papà, cosa, capendo che ero pigro a scuola. No? Scusami, mi consenti una battuta? Di solito chi è pigro a scuola o chi è bocciato, io sono stato uno di quelli, spesso, più, spesso. Per avere la terza media, grazie ai suoi profiterol, altrimenti neanche quello avevo. Guarda Nicola, sei straordinario. No, dicevo questo, spesso i grandi, e da questi c'è stato Verdi, è stato bocciato al conservatorio più di una volta e poi è diventato un grande della musica internazionale, musica sinfonica eccetera. Tu, io non sono un grande, ma tu insomma sei riuscito ad arrivare veramente in alto insieme alla tua azienda e ai tuoi fratelli, per cui il fatto che a scuola non rendessi più di tanto è servita. Ho fatto la famosa bottega non soltanto a Santa Nicola, lui aveva le sue amicizie del Campo Dolciario, i suoi colleghi nel versante messinese, soprattutto anche nel palermitano, nel nizzeno, nell'agrigentino, e ho fatto la famosa bottega un po' in tutte queste botteghe artistiche dolciarie. A 20 anni ero quasi appagato di quello che è la cultura millenaria araba normanna del mito dolciario siciliano, appunto. E cosa fanno i miei colleghi nel nord-est, nel Triveneto, in Lombardia, a Roma? Il panettone. Frequentavo un'accademia, qualche corso di aggiornamento all'Etoile, che è a Sottomarina Chioggia, vicino Venezia. io facevo artistica, no? Sullo zucchero, sull'arte del scolpire il ghiaccio, il cioccolato, mi ci mettevo a fare delle gare internazionali di pasticceria a Rimini, e lì scopro che c'era in un'aula un certo Teresio Busnelli, un maestro lievitista, che spiegava ai suoi allievi come si faceva il panettone. E ho subito pensato, papà, che ne vendeva 2-3 mila a Castelbuono nei suoi negozi, quelli industriali, Tre Marie, Baldassini, Galiuppe, eccetera. Città. Perché non provarlo a farlo? Veramente in Sicilia c'era soltanto Bova Conti, che era una mitica, Conti, gloriosa azienda che purtroppo non c'è più, a Termini Imerese, e Marotta a Palermo, erano 2, 3, 4 aziendine o pasticcerie che facevano il, ma non soltanto in Sicilia, anche nel mezzogiorno d'Italia ancora non era cultura di farlo il lievitato. E si parte così per gioco. Dopo 2 anni già lui non comprava più quelli industriali perché li facevamo noi. E quindi a Santa Nicola stavamo scoppiando, perché in 40 metri si facevano più di 1000-1500 panettoni al giorno, finché proprio alla vigilia di una Pasqua vengono in AS, la prima cosa che mi hanno detto chi sono i suoi avvocati, perché insomma chi sono i miei avvocati? Hanno visto delle cose che effettivamente non erano. Ma già noi avevamo inoltrato una richiesta nel comparto artigianale, insomma c'erano già i progetti, perché abbiamo intuito che era quella la strada maestra, quella di fare un'aziendina sempre ancorata alle logiche artigianali e di scrupoloso utilizzo di materie prime di eccellenza, e ci siamo subito dopo trasferiti, e davvero senza volerlo, senza capirlo, ci siamo trovati a fare sistema azienda nel territorio. E che azienda, ragazzi, ti fermo un attimo perché devo dare spazio agli sponsor e poi riprendiamo, diamo anche un po' di musica, perché sennò troppo ho parlato e poi ti toccherà dare panettoni a tutti gli ascoltatori. Allora ragazzi, siamo ancora sotto le feste, vi raccomando, per Capodanno, se non volete andare a fare il giusto veglione a spendere soldi, c'è chi lo può fare, c'è chi no, e io vi raccomando, potete comprare comunque della buonissima carne alla società cooperativa IACC di Farinella, dove è sempre a Gangi, via Nazionale 60, vi do il numero per le vostre prenotazioni, 0921 64 50 44. C'è una vastissima gamma di scelta, vi ricordo che la qualità della carne è rigorosamente madonita, perché i bovini, i suini, gli equini crescono e pascolano nei pascoli appunto verdi, senza le contaminazioni delle nostre alte madonie. Poi per chi vuole ama l'insaccato, c'è il salame felino, il salame cacciatorino, salsiccia asciutta, speck e pancetta di produzione propria, quindi della cooperativa Farinella. Poi i vari rollò di vitello, di pollo e tacchino, questo va bene, ma vi raccomando l'arista al pistacchio, arista tirolese, arista peperosa e arista all'arancia, che sono delle chicche straordinarie. Poi naturalmente gli involtini di vitello, gli involtini di maiale, vabbè, questo, oppure la Filadelfia e pistacchio, e l'ultima chicca è formaggi di tutti i tipi, e lì insomma potete sbizzarrirvi come vi pare. Vi ricordo quindi società cooperativa IACC di Farinella, le macerie sono in via Nazionale 60 Gangi, telefono 0921 64 50 44 e portate a casa vostra, pensate, un spicco di gusto delle nostre madonie. Andiamo ancora avanti. Se invece vi trovate a Castelbuono, beh, dovete pernottare, perché è un posto straordinario, camere super accessoriate con frigo bar, con riscaldamenti, televisione in camera, insomma tutti i comfort che necessita il bar giù, e che bar, ragazzi, vi trovate anche lì le cose di Fiasconaro, trovate tutto, perché loro sono dappertutto, per cui vi fermate al Psiglo Palace Hotel. Alla reception trovate il personale, che è veramente squisito, come tutti quelli che fanno questo mestiere a Castelbuono e in Sicilia in generale. L'accoglienza fa parte della nostra cultura e viene da quella araba, quindi non possiamo esimerci dall'essere così, per cui vi ricordo il Psiglo Palace Hotel. Intanto vivete in un posto tranquillo, c'è il parcheggio, le stanze super accessoriate, c'è il ristorante sopra, sotto, e il bar accanto, avete tutto a portata di mano. Se ci andate nel periodo estivo c'è un terrazzo sopra dove potete gustare tutto quello che è l'enogastronomia locale. Quindi vi ricordo il Psiglo Palace Hotel Castelbuono, via Cefalù 111 o via Mazzini, a seconda da quale zona, da quale parte voi arriviate. Il numero di telefono è 0921 67 61 63, e a 4 stelle, vi raccomando, buona permanenza a Castelbuono.

said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Allora, 12 e 46 minuti in questo momento al nostro Watch, rigorosamente in diretta con carta e penna in studio Filippo Glorioso. Alla console ricordo sempre il nostro amico Simone Brancato, e volevo salutare, e me lo consentirete, anche se siamo in un momento gioioso di felicità per le feste eccetera, ma devo salutare un caro amico che purtroppo è venuto a mancare, un collega giornalista e un'ottima penna, scriveva molto bene, aveva fatto delle battaglie straordinarie soprattutto nel messinese. Lui scriveva per Cronaca Vera, ma scriveva anche per la Sicilia di Catania, un cronista di tutto rispetto con il quale ho condiviso un anno di televisione in provincia di Messina. Sto parlando del grande e purtroppo è venuto a mancare prematuramente all'età di 38 anni con un male incurabile, l'amico William Castro, che saluto con tutto l'affetto possibile. Detto questo, Natale ascillato, dunque già il 28 è passato, c'era la rappresentazione teatrale, meno male che c'era Mesogere, scritto in vernacolo, a cura della compagnia teatrale Adelphi di Caltauturo. Invece giovedì 3 gennaio siete ancora in tempo, alle ore 15.30 Presepe Vivente, mercoledì 4 gennaio alle ore 15.30 Nutella Party con animazione a cura dell'associazione Dado e Brodo, giochi gonfiabili, animatori, sculture di palloncini, giochi a tema. Giovedì 5 gennaio alle ore 21 Tombolone di Natale con animazione e cabaret a cura del duo I Fratelli, e giovedì 5 invece alle ore 18.30 degustazione brodo tipici natalizi, iniziativa finanziata dall'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Vi aspettiamo a Scillato, tradizione, divertimento per grandi e piccoli. E poi un'ultima comunicazione. Dunque, il presepe vivente, pensate, alle ore 16.30 lungo le vie della Borgata, la comunità ambrosiana, in collaborazione con la parrocchia Lavroloco di Sant'Ambrogio Cefalù, la compagnia teatrale ambrosiana e il club Sant'Ambrogio in Vespa e la banda musicale Città di Cefalù presentano il presepe vivente. Siete naturalmente tutti quanti invitati a condividere con noi l'armonia di Natale. Bene, buon Natale anche a queste persone che si prodigano per rendere meno pesante il fardello da portare in questi ultimi tempi grazie a questo depauperamento economico di levatura universale. Siamo sempre in compagnia con il grande maestro Fiasconaro, Nicola, eccolo qua. Allora, Nicola, siamo rimasti con i NAS che vi stavano ispezionando, insomma, in questi 40 metri quadri che non si prestavano molto a quello che doveva essere invece un'azienda con tanto di capannone, con frigo, con forni, insomma, tutto quanto in regola. Ma fatto sta che ce l'abbiamo fatta, insomma, i capannoni ci sono stati, li avete fatti e si entra in produzione. Ma tu sei un personaggio tra i tre fratelli, io conosco tutti e tre, gli altri due, insomma, uno si occupa del bar, l'altro si occupa dell'amministrazione, tu sei il creatore, il deus ex machina della pasticceria. Tu ci pensi la notte quello che devi fare, cioè lo sogni, cosa fai la sera? Ti metti da solo a pensare cosa posso creare, ti vengono, come dire, ti accende la lampadina come a uno scultore, a un poeta, come avviene la tua creazione? Quando uno se lo cerca di realizzare, di riuscire a creare un qualcosa di importante, no? Un dolce nel mio settore, soprattutto quindi il dolciario, non viene mai, è il caso, no? A volte magari soprattutto da un incidente. Un grande dolce nasce spesso anche da uno sbaglio. Vedi un po', succede? Nella leggenda del panettone la più bella, la fiaba più ricorrente è quella di un garzone che in una cena importante nel 400 a Milano della famiglia Sforza, che erano i signori di Milano, insomma, a fine cena si era dimenticato questa pasta acida, non era cotta bene, insomma, e lui comincia un attimino a giocarci inserendo zucchero, burro e canditi, e viene fuori un capolavoro. Quindi da uno sbaglio a volte nasce davvero poi un miracolo, una leccornia davvero notevole. E quindi soprattutto così è successo effettivamente. E poi ovviamente oggi c'è la scienza, oggi c'è la tecnologia, oggi c'è uno studio importante, perché cosa è successo? Negli ultimi decenni, grazie appunto a quello che è il supporto tecnologico, gli zuccheri li togliamo in pasticceria, perché per antonomasia è il conservante naturale. Prima le creme si facevano, mancavano anche i frigoriferi, insomma, no? Più zucchero tu mettevi a un dolce, più la conservazione, la shelf life, quindi la durata del tempo. Quindi oggi un po' per quello che è il contesto dell'alimentazione sana, di una buona nutrizione, tutte quelle che sono le millenarie ricette storiche nostre, sicule, eccetera, vengono un po' oggi rivisitate col supporto anche della scienza. Quindi si fa microbiologia nel campo delle paste acide, ma anche quella che è la mitica cassata, quindi la regina, il principe, il cannolo, anche nella semplice crema di ricotta, rispetto al passato togliamogli il saccarosio. E quindi cerchiamo un attimino, anche per esigenze alimentari, di quello che è un po' a volte le bacchettate che ci dà la comunità europea, no? Sulla legislazione degli zuccheri, che molte industrie italiane vengono un po' rimproverate che eccediamo nel discorso del saccarosio, eccetera. E quindi noi siamo abbastanza sensibili, abbastanza attenti a quello che soprattutto la pasticceria salutistica. Non è un caso se già quest'anno abbiamo presentato due dolci che appunto c'è questo avvicinamento quasi al biologico, ed è la scommessa quindi della pasticceria Fiasconaro, non nella grande quantità, non nelle grandi distribuzioni, ma cercare segmenti di nicchia di mercato di eccellenza, ed è lì che non c'è la crisi. Non è un caso se oggi la Fiasconaro, anche quest'anno in un momento terribile, no? Di crisi internazionale. Quello che è una parola che io odio, ma purtroppo è la realtà. Esiste. Quindi la recessione globale nel pianeta Terra, Fiasconaro è un po' un'eccezione alla regola, perché siamo in un incremento che ancora i dati saranno ufficiali a gennaio, dal 10 al 15%. Quindi c'è entusiasmo, c'è quella consapevolezza di aver negli anni fatte le cose in un certo modo, quindi investendo nella ricerca scientifica soprattutto. Ma anche nella qualità, che è importante. Ricerca scientifica significa quello. Nicola, anche... io ho tra le mani la brochure, la chiamiamo così, dei Fiasconaro, per quanto attiene la vasta gamma di prodotti che voi fate per Natale, ma non solo. E trovo una chicca, devo dire, che avete regalato alla nostra amica di Campo Felice, è rimasta basita, ed è un panettone, pensate, peccato che non abbiamo la televisione, anzi c'è, ma è distante, non riusciamo a farlo inquadrare bene, ed è il panettone come a forma di grotta dove c'è stata la natalità di Gesù, con questa stella polare di sopra. E questo è un regalo che si può fare anche a un amico, in famiglia, eccetera. Ma a parte queste sculture particolari, e poi sono di cioccolata bianca, se non sbaglio, le statuette, sì, no? Sì, ecco. Cioccolato bianco. Cioè, vengono fatte a mano queste? Sì, abbiamo degli stampi, ovviamente in silicone alimentare, si fa appunto il collaggio, è un lavoro di tecnica dolciaria, e poi insomma rappresenta appunto il simbolo della natività, appunto il Natale. Il significato del panettone ha una simbologia molto particolare. Non c'è casa più povera dove non c'è il panettone. Questo significato si dona a chiunque, soprattutto al poverello, dove c'è il sommerso, dove c'è bisogno, dove c'è la gente che è un po' dimenticata. Il panettone lo doniamo qua, è bellissimo. Quindi realizzare questo dolce, che ha, rispetto a tantissime altre referenze dolciarie italiane, è il più prestigioso dolce italiano nel mondo, con questo significato nobile, ed è molto bello per chi lo realizza anche donarlo, insomma, no? È una cosa molto... un sorriso, tutto sommato. Assolutamente sì. È una cosa che non costa tanto, è una cosa di poco valore economico, ma è intrinseco, c'è un valore umano. È un mese, umano. Già dall'Immacolata fino al 6 di gennaio il panettone davvero lo troviamo dovunque, ed è molto bello. Oh, prima di parlare delle varie marmellate, senti, io sono molto ghiotto di tutta sta roba qui, ho perso un sacco di denti, mi sta costando dire di Dio, però non posso esimermi, devo starci anche attento, perché sai che poi il troppo, insomma, storpia. Però però avete delle eccellenze, dalle marmellate, passiamo qui ai torroncini di vario colore, perché sono cioccolata nera, cioccolata bianca, eccetera. Ma una domanda mi sorge spontanea: siccome la capitale, amore, a meno in illo tempore del panettone, era rigorosamente Milano, e i milanesi quando hanno visto arrivare il panettone dalla Sicilia, un po' il cannolo che viene fatto da noi, insomma, ce lo vediamo un po' rubato, no? Se lo fanno in Lombardia, come hanno reagito? L'impatto qual è stato, Nicola? Beh, diciamo il primo anno, il secondo anno che abbiamo fatto le fiere a Milano, quindi la Tutto Food o altre kermesse, un po' ti guardavano. E un po' spiazzati. Ti guardavano anche con titubanza. Ma voglio raccontare questa bella favola, prego, prego. No? Una favola del nostro uomo in Lombardia che vende la Fiasconaro, no? 12 anni fa lo prendevano per pazzo che vendeva il panettone siciliano, no? Quasi lo buttavano fuori dai negozi, ma che sei diventato anche tu un terrone. Oggi si ritrova questo signore, anche perché in Lombardia vendiamo quasi di più della Sicilia, tra l'altro. La seconda regione in Italia dove facciamo più fatturato, e questo signore oggi si ritrova a essere il più coccolato agente di commercio che c'è in Lombardia. Beh, anche fortunato, no? Fortunato, seminato molto. Anche lui ha avuto l'incoscienza, la spregiudicatezza, no? di crederci in questo lievitato siciliano, anche perché effettivamente la cultura è piemontese, veneta, meneghina, ma all'interno del panettone ci mettiamo i nostri aranci, no? Io personalmente vado nella piana di Lentini, di Carlentini, mi seleziono gli agrumi e me li faccio candire, magari non qua in Sicilia, che purtroppo mancano gli impianti di trasformazione. Nel caso delle mandorle, ovviamente è la mitica pizzuta di Avola, e quindi abbiamo queste meravigliose risorse agroalimentari della nostra terra. Quindi dimostrare al mondo che il Made in Sicily è vincente anche nelle paste acide, quindi cultura del nord ma con ingredienti, sapori del nostro territorio. Ma sai una cosa, io vengo da Milano in questi giorni, parlando con molti lombardi, proprio autoctoni, non trapiantati come spesso capita, anche fuoriusciti, siciliani, meridionali che vanno a vivere su, poi magari si integrano benissimo con quello che è la storia, la cultura di quella città e di quella regione. Ma c'è un aspetto importante: chi viene dal nord per la prima volta in Sicilia scopre le famose granite che fanno a nuoto, no? di mandorla, panna, cioè cose buone, ma uno li si ingrassa, cioè. Allora sarebbe bello, dici bene tu come responsabile di un'azienda che sta crescendo in maniera esponenziale, dici bene tu, noi abbiamo dei prodotti talmente buoni, talmente ricchi, l'Eldorado ce l'abbiamo qui, non bisogna andare a cercare nel West, no? L'oro che non si trova, l'oro ce l'abbiamo qui, sta a noi siciliani, alla nostra politica regionale, ai nostri assessorati, alle camere di commercio, mettere a disposizione tutte le nostre potenzialità finché vengono conosciute nel mondo. Beh, diciamo, io questa volta non vorrei un po' dare... colpevolizzare sempre la politica, che ha le sue responsabilità, sappiamo tutti, insomma, alla luce del sole. Soprattutto in questo momento stiamo vivendo un momento non molto bello, ma penso che sia un problema culturale. Il fatto che la Sicilia dovrebbe vivere esclusivamente, la di nostra turismo, vocazione è l'industria del turismo e il comparto agroalimentare, e c'è una grande difficoltà oggi. Quindi non vi è dubbio che la politica ha le sue specifiche e precise responsabilità, ma penso che sia anche colpa della cultura meridionale, della cultura siciliana, di non fare sistema azienda. Oggi cosa vuol dire fare sistema azienda? Significa mettersi insieme agli altri, consorziarsi, aggregarsi, l'unione fa la forza, sinergie, e si è vincenti. Non è un caso se oggi Fiasconaro, che possa essere da modello per le nuove generazioni, no? Da un piccolo paesino dell'entroterra della Sicilia, delle Madonie, accanto a Cefalù, Castelbuono, la pasticceria siciliana che va in tutto il mondo. Non è un caso, è la dimostrazione che si può fare sistema azienda. Anche per fortuna nel nostro territorio non ci sono grandi problemi culturali, non siamo a Gela, non siamo a Brancaccio, certo, che ci sono delle zone che effettivamente fare sistema azienda e impresa è molto più complicato. Quindi ben venga che le nuove generazioni, anche perché oggi ci sono c'è lo sportello unico, c'è la Susvima, ci dovrebbe essere il Parco delle Madonie per certi aspetti. Stimoliamo, battiamo i pugni a pari patto con la politica. La politica deve dare servizio a chi realmente vuole fare sistema azienda. Ma noi soprattutto quando infrastrutture, perché senza queste infrastrutture, non riusciamo a comunicare. Effettivamente noi a Castelbuono abbiamo queste problematiche del comparto dell'ex SIRAP, che purtroppo per 30 anni è stata un po' bloccata, discorso mafia ovviamente, ora da qualche anno finalmente l'hanno sbloccata, ci sono tante adesioni, speriamo quanto prima che tante piccole realtà in qualsiasi settore, non soltanto dell'alimentazione, della siderurgia, del meccanico o dell'ebanismo eccetera, tanta brava gente che ha il coraggio di investire, a credere, a fare sistema azienda nel piccolo, nel medio, nel grande, non è importanza, bisogna assolutamente fare in modo che nuclei familiari del territorio ancora evadono, vanno in Toscana, vanno in Lombardia, non c'è un giorno che non c'è una famiglia che non viene a chiederci un posto di lavoro, di questa cosa è angosciante, è imbarazzante, non è bello, perché siamo forse l'unica goccia nel grande mare che diamo un minimo di serenità a 80-90 famiglie nel periodo autunnale, e poi l'indotto di 7-8 strutture che copriamo tutta la Sicilia, dove a Bronte si fa il torroncino, nel versante modicano facciamo le paste di mandorle e i biscotti, nel Gagliano, quindi nell'Ennese, facciamo la liquoristica. Tutto questo indotto si potrebbe anche realizzare nel nostro territorio, nelle Madonie. Speriamo che ci danno anche i mezzi, le istituzioni, per poter coronare un altro sogno, quindi di dare ancora più occupazione nel territorio, che ci sentiamo con serenità di essere in grado e nelle condizioni di poterlo fare. Ma davvero la politica, che ha le sue enormi responsabilità, è anche un problema culturale del popolo siciliano, che non vuole avere quella mentalità imprenditoriale. Speriamo che il caso nostro possa dare stimolo alle nuove generazioni, ai giovani soprattutto. Prima di salutarci, sono le 13, abbiamo ancora 10 minuti, e ti volevo attenzionare con questo messaggio che l'amica Antonella di Campo Felice Roccella, l'autrice delle fontane peraltro, ecco, ti attenziona mandandoci questo messaggio su internet, dove dice: Antonella Mantione scrive: splendida la natalità dolcissima di Fiasconaro. Ecco, voglio dire, è una testimonianza diretta, non è emotivo, cioè non è la prima che ti arriva, ne hai avute di altre testimonianze del genere. Hanno fatto delle cose meravigliose durante il momento estivo a Castelbuono, la presentazione della gara della Corsa di Sant'Anna, no? Insomma, si è fatto un ricordo perfetto, vai a finire in Castelbuono, si è fatto un ricordo a papà, e abbiamo fatto realizzare a questa signora delle sculture della Piazza Margherita, donandole un po' alle autorità, in questo caso c'era la signora Facchetti, Todoschi Lagi, quindi papà interista, quindi la signora ha contribuito a dare nuova edilizia siciliana, ecco, e l'azienda è quella. Hanno davvero fatto delle sculture molto molto pregiate, donandole a personaggi. Voi non siete stati da meno, avete regalato le sculture. L'altro, poi il 29 di luglio in Piazza Castello a Castelbuono, il premio giornalistico a Giovanni Pepi, condirettore del giornale di Sicilia, che ha ricevuto un'altra creazione da parte di questa azienda. Nicola, tantissimi personaggi tu hai conosciuto nell'excursus della tua vita, da quando sei diventato il personaggio che sei, cioè una persona semplice come tutti i tuoi fratelli, come tutta la tua famiglia, avete preso molto da papà. Certo, tu sei un po' diverso dagli altri due, perché sei più a contatto con l'establishment, no? Della RAI, di altre, quindi di per sé si è portati ad essere un po' più rigidi su certe posizioni. Sei il personaggio, ecco, sei l'attore principale, senza nulla togliere agli altri fratelli che sono ugualmente attori come te in questa azienda stupenda, meravigliosa, da voi creata. Di tutti i personaggi, e poi parliamo di alcuni passaggi televisivi, dalla RAI siamo passati a Mediaset eccetera, ma di tanti personaggi importanti che tu hai conosciuto, quali di questi ti è rimasto più impresso? Qual è stato il momento più bello che tu ricordi nell'impattare, non so, con Giovanni, con l'attuale Papa Ratzinger, oppure con personaggi del mondo della politica o della cultura in generale? Beh, quello del Santo Padre, ovviamente, insomma, a prescindere se si crede o no, essere a Piazza San Pietro alla vigilia della Santa Pasqua e donare un dolce da parte dei pasticceri siciliani a sua santità, penso che è qualcosa di incredibile, qualcosa che ti emoziona, sì. Che ti dà una grande responsabilità, ti dà una grande gioia, perché è davvero una persona che, fra l'altro, molto carismatica, ti incute soggezione per certi aspetti, no? Quindi è stato un grande privilegio. Non è un caso che già l'anno prima Sua Eminenza, il Cardinal Romeo, che ama i dolci, ama il territorio, ama Castelbuono, viene a mangiare le nostre trattorie, perché bisogna anche dire che Castelbuono oggi raggiunge un certo equilibrio da un punto di vista di turismo enogastronomico, perché c'è l'accoglienza da parte di tutti i ristoranti, le trattorie, tutte quelle che sono gli agriturismi del territorio di Castelbuono, davvero hanno il senso dell'ospitalità e fanno del buon mangiare semplice e genuino. Quindi Sua Eminenza viene spesso a Castelbuono e mi dà la possibilità, oltre quando lui è venuto a Palermo 2 anni fa, il 3 ottobre, il Santo Padre, io ho fatto da gran cerimoniere alla cattedrale di Palermo, responsabilità assolutamente anche te, no? E c'è stato un momento in cui, in un'intervista a Giornale Sicilia, che ho avuto questo grande rammarico: sì, ho realizzato il piatto dolciario per il Santo Padre, ma non l'ho potuto salutare, vedere. Aia. L'ho detto in un'intervista, pensavo che la Chiesa mi massacrava, e invece Sua Eminenza mi chiama, che mi dava la possibilità proprio il mercoledì della Santa Pasqua di andare a Roma in Piazza San Pietro e donare una meravigliosa colomba fatta in Sicilia, il dono di tutti i pasticceri siciliani. Poi, questo è il più significativo, ovviamente, un grande personaggio siciliano. Lui è nato a Bagheria, lui si chiama Giuseppe Tornatore. Insomma, ho avuto il piacere di intervistarlo qualche anno fa. E io qui a Cefalù l'avete accolto l'anno scorso dandogli la cittadinanza onoraria, sì. E io ho avuto un privilegio, no? Quello di realizzare una PS con i miei ragazzi in laboratorio dell'ultima sua fatica cinematografica, e quindi il fatto di averlo potuto conoscere, parlargli, lui è davvero il simbolo della Sicilia, quella vera, quella che nel mondo dà lustro e fa dimenticare i problemi culturali che ci sono. Infatti, quando io ho la possibilità di girarlo il mondo siciliano e dico sono un creativo, un dolciere, quindi tutti sanno che c'è la mitica tradizione dolciaria. Sì, perché gli stereotipi sono quelli, nel campo dell'arte, spaghetti e mafia. Nel campo dell'arte Tornatore oggi è davvero un grande simbolo della Sicilia, quella vera, quella davvero dell'arte, quella davvero delle persone che riescono a dire al mondo ci siamo e siamo. Beh, lui è un regista nel campo cinematografico, tu sei un regista, sei un Fellini, scusami l'accostamento, più che Tornatore è giovane, ma io ti accosterei a un Federico Fellini, perché sei veramente attento anche nei piccoli dettagli, o Sergio Leone, che addirittura inquadrava gli occhi il primo piano, no? L'americana, quando nei western, gli spaghetti western così chiamati negli Stati Uniti, allora Sergio Leone accostava la telecamera proprio per inquadrare l'espressività degli occhi dei suoi attori, ed era molto nei dettagli, curava molto i dettagli. Quindi tra Fellini e Sergio Leone io ti metto in mezzo, perché anche tu sei un grande regista della pasticceria siciliana in generale, particolarmente poi quella di Fiasconato. Il terzo momento, prendiamo un politico, ma non perché la politica, insomma, noi facciamo quella imprenditoriale di politica. Un leghista, li hai pure conquistati. L'attuale governatore Veneto, Luca Zaia, è stato, sì, ministro delle politiche agricole per qualche anno. No? È vero. Io ho avuto davvero il grande onore alla Tutto Food a Milano, che è la più grande fiera dell'alimentazione italiana. 3 anni fa lui ha inaugurato la Tutto Food, non con il solito nastro tricolore, ma tagliando un panettone fatto in Sicilia da 50 kg. Ma pensate! Si sono un po' arrabbiati tutti a Milano, capito. È successo quasi un finimondo. Comunque, per me è stata questa la più grande soddisfazione come pasticcere. A casa loro! Assolutamente! A casa loro! Gli altri che facevano il panettone non solo erano un po' arrabbiatelli, comunque fa parte un po' del gioco, è affascinante la vita anche per questa, no? Ti fermo un altro secondo per dare spazio alla regia, ma prima di dare spazio alla regia c'è un altro messaggio che arriva su internet, è Luigi Cernigliaro che ti saluta. Nicola, complimenti per la voce, grazie per averci ricordato buone feste con affetto. È anche lui è il pasticcere delle fontane. È lui. Allora salutiamo anche l'amico Luigi Cernigliaro, vediamo cosa dice la regia. bacio. Message in a bottle. Message in a bottle. Diretta alle 13:24 minuti in questo momento, in diretta sempre con carta e penna, in studio Filippo Glosa a condurre, con me il grande maestro pasticcere. Io sono un po' in soggezione perché insomma un uomo che ha vissuto molto, ha girato tanto, ha incontrato personaggi veramente interessanti. Parlavamo prima del Papa, ma ha incontrato sicuramente Moratti, che è il patron dell'Inter, e il Papa suo, insomma, insieme alla famiglia sono legatissimi, tant'è che quest'anno è venuta la figlia di Facchetti a ritirare un premio di riconoscimento da parte dei Fiasconari, che hanno inaugurato tra l'altro il nuovo club Inter a Castelbuono. Oh Nicola, allora, prima di lasciarci io parlerei per ore e ore e ore, perché lui è un personaggio meraviglioso, addirittura i complimenti per la voce, perché ha una bella voce, perfetta dizione, insomma, come si dice, un uomo che fa comunicazione oltre a fare il pasticcere, e non potrebbe essere che così. Ma Nicola ci stupisce ancora di più, perché pensate, ha la cittadinanza onoraria ad Avola. Dico bene, Nicola? È talmente voluto bene, e perché ha avuto la cittadinanza onoraria ad Avola? Perché ha difeso una peculiarità di questa cittadina, che era la mandorla pizzuta, chiamata così. Cos'è questa? Perché è così particolare questa mandorla, Nicola? La pizzuta è una mandorla ineguagliabile, non ce ne sono da nessun'altra parte del mondo, per la qualità, da un punto di vista organolettico-nutrizionale. È diventata leggendaria questa mandorla del Val di Noto, perché i grandi confettieri francesi, grandi uomini della confetteria, se non hanno la pizzuta non fanno il confetto. Addirittura. E sappiamo il rigore dell'arte dolciaria che c'è in Francia, e purtroppo è un momento in cui si parlava poco fa delle difficoltà del campo della trasformazione del prodotto agricolo, anche la pizzuta sta risentendo un po' questa crisi. C'è una piccolissima produzione ormai rimasta, e io da anni che mi batto per tutto quello che è la salvaguardia di questo patrimonio agricolo che abbiamo. Ho avuto il grande onore di essere stato insignito come cittadino onorario, e domani sera invito a tutti, perché stiamo partendo da Castelbuono ad Avola, e faremo una festa con i biscotti alle mandorle, ovviamente la mandorla di Avola, i panettoni sempre con quelle mandorle, delle creme, e poi un po' di pasticceria, insomma la cubaita eccetera, quindi una grandissima festa col moscato di Noto e di Siracusa. E quello è un altro angolo della Sicilia che è meraviglioso, no? Stiamo parlando del Val di Noto, stiamo parlando un patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, sono delle zone davvero dove c'è una grande vocazione nel comparto artistico, culturale, di turismo di eccellenza. Speriamo che si può migliorare. Io c'ho lì un sogno da realizzare, perché esisteva una grande industria di marzapane, quindi sì, della nostra frutta marturana, già dall'Ottocento partivano da Avola tonnellate e tonnellate di questa frutta meravigliosa, che col saccarosio andava in tutti e cinque i continenti. Oggi si parla, perché purtroppo da 70 anni non c'è più questa industria, di farne un museo. Io invece non voglio farne un museo ad Avola, voglio riprendere quello che... Vuoi fare ripartire il ripartire volano. Di fare una industria di marzapane in quel territorio. Se ci sono le condizioni, davvero sarebbe molto bello riprendere quello che da quel territorio, la mitica pizzuta, e dare occupazione a tanta gente che anche da quelle parti, insomma, non c'è grande, evadono anche da lì, vanno ancora in cerca di fortuna, e non, questa cosa non è per niente bella, ecco. Nicola, intanto è chiaro che tutti ti devono ringraziare per questa battaglia che spero tu possa vincere, perché comunque è anche quello un pezzo della nostra storia, no? Un pezzo della nostra amatissima Sicilia senza i campanili. E noi siamo una bella regione, abbiamo un bel sole. Io venendo dal nord, sinceramente ho visto già la valenza che ha la nostra temperatura sulle cervicali, per dirne una. Per cui poi abbiamo un bel sole, abbiamo il mare, il pescato fresco, cioè abbiamo tutte quelle caratteristiche che ci possono consentire di vivere, o quantomeno di poter vivere, una vita un po' più serena e più ricca sotto, non sotto il profilo economico, anche perché se sfruttassimo a fondo quelle che sono le nostre aspettative di vita, la nostra enogastronomia, il nostro sole, il nostro mare, il nostro turismo, perché abbiamo, come dicevi tu prima, la Val di Noto, insomma, quanto dire, il barocco per eccellenza, vedi Noto. E poi una cosa molto bella, Nicola, una volta una persona mi portò a Porto Palo, che tu sai perfettamente dov'è, è alla punta estrema, no, della Sicilia dopo Noto, e lì nell'imbrunire, guardando dritto per dritto verso l'orizzonte, vidi per la prima volta e mi commossi le luci della Tunisia. Insomma, voglio dire, la nostra Sicilia è bella a 360 gradi, senza essere tanto campanilisti, ma è quella la realtà. No? Abbiamo dei luoghi meravigliosi, la natura ha voluto che la Sicilia, no? Ci troviamo in una situazione geografica che potremmo approfittarne di più. Siamo nel bacino del Mediterraneo, in questo momento in cui il Nord Africa si sta evolvendo. Ci sono, per fortuna, oggi le nuove generazioni di questi popoli del Nord Africa stanno facendo delle rivoluzioni per migliorarsi, per avere quella che deve essere la cosa più bella degli esseri umani, la libertà. E stanno anche crescendo da un punto di vista imprenditoriale, di industria, del turismo e della trasformazione agricola. Dobbiamo capire che se non ci evolviamo noi, se non cresciamo da un punto di vista culturale e imprenditoriale, possiamo perdere un famoso treno, insomma. Quindi non viviamo sugli allori, che siamo i più bravi, che siamo i più bei, giriamo il mondo e capiamo che i paesi crescono per fortuna e si evolvono. La Sicilia dobbiamo un po' riprendere questo cammino. Nicola, prima di salutarci e finire qui questa nostra brevissima chiacchierata, il tempo è volato, abbiamo ancora 5 minuti, ma devo ancora leggere gli ultimi sponsor e poi salutare anch'io i nostri radioascoltatori. Due domande stringatissime, risposte altrettanto stringate, mi raccomando. La sintesi, insomma, per chi fa il pasticcere deve essere molto sintetico, perché se no ci perdiamo nei meandri. Due domande, una è personale e l'altra invece è quello che tu ti senti di dire a chi si affaccia per la prima volta nel mondo della pasticceria, chi vuole fare il tuo stesso mestiere e diventare maestro pasticcere. Quella personale è: scevro dal fatto di essere uno dei più grandi pasticceri italiani, scevro dal fatto di chiamarti Fiasconaro, Nicola, come persona, quali sono i punti cardini salienti nella vita che Nicola ha dentro di sé e che vuole dare agli altri? Beh, per fare questo mestiere ci vuole fare il famoso compromesso con la vita, con se stessa e con la famiglia. Io ho trascurato anche la famiglia per dedicarmi a lavorare 20 ore al giorno, non soltanto nelle mie officine, nelle mie botteghe a Castelbuono, ma girando il mondo, confrontandomi con i pasticceri di tutto il pianeta Terra. E questa cosa poi alla lunga la vince, insomma, no? Quindi l'umiltà di confrontarsi con gli altri, il sacrificarsi e non fare sport, non fare teatro, non fare cultura per dedicarsi, perché è un mestiere che non puoi fare il compromesso. O lo ami o lo fai in un modo proprio profondo, è meglio che cambi modo di vivere e modo di fare, appunto, di impiegarti in altre cose. Io ho la fortuna di avere mio figlio Mario, che oggi ha 19 anni, che insieme anche alle sue cugine, alle Agate, la quarta generazione pare che ci sia. Lui già a 12 anni andava in Piazza Margherita da Fausto, negozio storico, cominciò a fare le granite, poi il gelato, oggi comincia a fare le brioche, comincia a fare le decorazioni nelle torte. Per me questa è la cosa più bella, il fatto che si stia innamorando di un mestiere. Speriamo che possa andare in qualche accademia, già dal prossimo mese dovrebbe andare alla Casta Alimenti in Lombardia a fare degli stage, ad approfondire da un punto di vista anche scientifico quello che è il valore della buona nutrizione, sapere cosa sono gli ingredienti di un dolce e quant'altro, e pare che ci siamo, insomma. Quindi Dynasty continua. Ma, invece speriamo, un augurio speriamo, che vuoi dare ai radioascoltatori? che possa finire questo momento davvero brutto. Io penso che più brutto di così non si può. Un momento così più drammatico di recessione a livello planetario, davvero, insomma, di rinascita, di ripartire da zero. Cosa vuol dire? Rimbocchiamoci tutte le maniche, tutti, non diamo sempre la colpa alla politica, guardiamoci negli occhi. Dobbiamo stimolarla, semmai. Ecco, stimolarla la politica, perché deve darti i mezzi di fare le cose, ma dobbiamo essere soprattutto noi, popolo siciliano, a dire che ce la dobbiamo fare. Dobbiamo farcela, perché, insomma, la Sicilia ha dei primati incredibili da sempre. Dobbiamo essere di nuovo all'apice, nella vetta più alta, e dimostrare al mondo che siamo soprattutto persone per bene e che abbiamo anche il senso della imprenditorialità, dell'ospitalità, che sappiamo fare industria di turismo, ma bisogna guardare gli altri popoli che la sanno fare anche meglio di noi. Nicola Fiasconaro, io mi sento di dirti a nome dei radioascoltatori grazie perché esistiate. Un grande padre, una grande madre, una grande dynasty, una grande famiglia di cuore, una famiglia gioviale, una famiglia che veramente sta a contatto diretto con la gente, non si è mai montata la testa, anzi è grazie alla gente che applaude a quello che loro hanno fatto, creano posti di lavoro e la loro sensibilità di famiglia, quello che papà gli ha tramandato da generazione in generazione. Io spero che possa crescere sempre di più e portare in alto il buon nome dei Fiasconaro prima e della Sicilia poi, e anche di Castelbuono, se vogliamo. Buon anno a tutti. Buon anno a te, Nicola, grazie per essere stato con noi. Io, prima di salutarvi, devo ricordarvi la Perla d'Engiu. Passate il vostro capodanno, la Perla d'Engiu a Gangi, ed è il Park Hotel Sala Ricevimenti a 4 stelle. C'è una cucina straordinaria, internazionale ma anche regionale. Lo trovate a Gangi e stile Liberty, e trovate un salone veramente arredato con gusto come nei vecchi tempi andati, e l'impatto scenografico con questa struttura è veramente straordinaria. Ma la cosa più bella è quello che ci trovate all'interno. Passate il vostro capodanno alla Perla d'Engiu, al Park Hotel Sala Ricevimenti a Gangi. Dovrò darvi anche il numero di telefono, 0921 689281, per le vostre prenotazioni. Se invece volete passare un sabato e domenica all'insegna del divertimento, Disco Pub al Texano a Castelbuono, via Abruzzo numero 10, musica dal vivo e non solo. Non vi dico altro, dovete andare a trovare il Disco Pub al Texano in via Abruzzo numero 10 per passare delle serate veramente straordinarie all'insegna del sano divertimento con musica live. Telefono 0921 671199 a Castelbuono. E ancora a Gangi, fate ancora tempo a regalare un pezzo del vostro cuore o del vostro portafoglio, a secondo di quello che, come la pensiate voi, alla vostra moglie, vostro marito, ai vostri figli, ai vostri cari, ma anche, perché no, ai vostri amici, passando dalla gioielleria Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi. Telefono 0921 644 327 oppure www.piscitellopreziosi.com. Vi do l'indirizzo internet, così andate a vedere con i vostri occhi di cosa vi sto parlando. La gioielleria, i solitari, le comete gioielli, Nardelli e Donna Oro sono le firme più prestigiose per quanto attiene l'orologeria. Andiamo da Sector a Philip Watch a Bresson. E poi altre firme prestigiose per quanto attiene i prodotti di acciaio e gli orologi, per esempio, sono della Guis Nomation, Alviero Martini e poi Roberto Cavalli. E cos'altro dirvi? Abbiamo le linee dei capezzali olio su tela, ma bisogna andare da Piscitello Preziosi a Gangi, vi ricordo, in via Corso Umberto 1, per capire di cosa io sto parlando e che cosa voi vogliate regalare ai vostri cari. È tutto per questa puntata. L'appuntamento per la replica, chi volesse riascoltarla può farlo sul nostro sito internet andando su Google, trovate naturalmente i palinsesti di CRMP Radio, cliccate carta e penne e lì vi risentirete la puntata odierna. Intanto io vi faccio gli auguri di buon anno, che sia un 2012 all'insegna della salute innanzitutto, e poi di tantissimi successi, sperando che l'economia possa riprendersi alla grande e vivere i nostri figli e i nostri nipoti in maniera come abbiamo vissuto noi dagli anni 60 in poi, con il boom economico. Se questo boom non ci dovesse essere, quantomeno che possano vivere una vita un po' più serena rispetto agli ultimi tempi che stiamo attraversando noi. Un augurio di cuore lo facciamo alle forze dell'ordine, che sotto le feste sono sempre impegnate alla salvaguardia del patrimonio artistico, ma anche alla salvaguardia di noi stessi, e poi ai Vigili del Fuoco in particolare, un corpo verso il quale nutro una simpatia straordinaria, agli infermieri, quindi ai paramedici e ai medici che in tutti i nosocomi della Sicilia e in tutta Italia si alternano al cavezzale degli ammalati, ma lavorano anche per Natale e per Capodanno. Cos'altro dirvi? Ringrazio e faccio gli auguri a tutto lo staff di CRMP Radio, in particolare particolare a Simone Brancato alla parte tecnica, che ringrazio ancora una volta per essersi prestato e aver prestato la sua opera per la conduzione di questa trasmissione. Un augurio al nostro editore, ad Angelo Arduino, al direttore responsabile del GR e naturalmente a tutti coloro i quali ci vogliono bene. Da parte mia, grazie all'ospite che abbiamo avuto in studio, Nicola Fiasconaro, grande maestro pasticcere al quale auguro tantissime fortune per il suo futuro, a lui e a tutta la sua famiglia. Da parte mia, cos'altro dirvi? Cercate di passare un buon Capodanno all'insegna del sano divertimento, spensierato, non pensate ai problemi economici, perché se no manco mangerete. Mangiate tantissime lenticchie e si sono sicuro che vi arriveranno tantissimi soldini, ma soprattutto tantissima salute nel vostro portafogli. Grazie a tutti quanti gli sponsor. Cos'altro dirvi? Un grande bacio. L'appuntamento per giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma, Carta e Penna, sempre condotto in studio modestamente da Filippo Grosso. Ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura